Per esempio, nella nostra Costituzione, nei principi fondamentali, ci sono i diritti inalienabili dell'uomo. I diritti inalienabili dell'uomo non sono altro che espressione a livello costituzionale delle qualità dell'essere. Pensate all'articolo 3, solo l'articolo 3 cosa dice? Comma 1, eguaglianza formale, e non ne parlo. Comma 2, eguaglianza sostanziale. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, pum pum pum, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, non della persona umana. Cioè impediscono il pieno sviluppo delle qualità delle persone. Questo è un'intrusione umanistica dentro la nostra Costituzione, la quale ci dice che questo lavoro che stiamo facendo adesso, qui dentro, dovrebbe essere obbligatorio per legge, per tutti i cittadini, semplice. Visto che la scuola non lo fa, ma dovrebbe essere fatto nelle scuole. Perché se no non ci può essere il pieno sviluppo della persona umana.